Salva Danaio di Deborah Rosciani. Un buon inizio settimana a tutti. Da Deborah Rosciani ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Ve lo abbiamo già anticipato, per le borse la settimana non parte propriamente bene, tutt'altro, i cali anche stamattina sono all'insegna della pesantezza e di che misura, tra l'altro. Fra qualche minuto vi farò il punto consueto della giornata sui mercati finanziari. Andiamo però subito alla presentazione del tema di questa mattina. Oggi con il Sole 24 Ore esce la seconda guida delle sole i low cost di qualità, le guide per spendere meglio. Lunedì scorso ci siamo occupati, non ricorderete, della spesa. Oggi andiamo invece al taglio dei costi. Oggi abbiamo il taglio dei costi nel settore bancario ed assicurativo. Sul tema dei costi bancari abbiamo fatto tante puntate di Salva Danaio, ricordando come in questi anni in effetti la concorrenza e dei gruppi bancari stranieri e anche i moniti delle autorità di controllo abbiano indotto le banche ad abbassare i costi dei conti correnti e dei servizi finanziari più diffusi. Nel settore assicurativo invece abbiamo quasi sempre focalizzato la nostra attenzione nel ramo auto e nel ramo vita. Oggi ci occupiamo, sempre prendendo spunto dai contenuti della guida del Sole 24 Ore, del ramo danni. E sì, perché sono tanti i piccoli imprevisti nella vita di una famiglia. Il cane può mordere il vicino, il bambino in bicicletta può rovinare un'auto in sosta, si può rompere la lavatrice e di conseguenza allagare l'appartamento di sotto. In questi casi sarebbe sicuramente ottima cosa avere una polizza RC capofamiglia che ad un costo ragionevole consenta di mettere al riparo da tutti questi grandi piccoli inconvenienti. Ma quanto costano queste polizze? È vero che sono sempre piene di clausole che poi impediscono una reale copertura che crediamo di pagare versando regolarmente i premi. Oggi parliamo di queste polizze, di polizze infortuni, ma anche delle altre polizze che riguardano la nostra casa, come la diffusissima polizza incendio, che in genere deve essere sottoscritta obbligatoriamente contestualmente all'acquisto della casa, soprattutto se il mutuo che si chiede ha un importo molto alto, per cui insomma diverse sfaccettature delle quali oggi parleremo e chiacchiereremo con i nostri ospiti, che come sempre risponderanno anche alle vostre domande all'800 24 00 24. I nostri ospiti chi sono? Francesco Paparella, presidente dell'AIBA, l'associazione italiana broker di assicurazione e riassicurazione, e per le associazioni dei consumatori la dottoressa Stefani Unterweger, esperta del settore assicurazioni per il centro di tutela consumatori e utenti. Il numero verde ve l'ho ricordato, come sempre potete utilizzare anche il numero per scrivere invece dei messaggi, e in questo caso il numero è il 349 238 6666. La borsa però so che siete in trepidante attesa per sapere come stanno andando questa mattina le cose. Ebbene, vanno male. Vanno male nell'ordine del 5,87% di calo a Parigi, Francoforte meno 3,63%, Londra meno 4,85% e anche Milano arretra del 5%. Ma il vero e proprio tonfo questa mattina ancora una volta lo hanno registrato i mercati asiatici. In Giappone il Nikkei ha perso il 6,36%, ma ancora peggio è andata l'Hang Seng di Hong Kong, che ha chiuso con un ribasso a due cifre, meno 12,70%, sedute che non si vedevano da decenni. Pensate che Manila nelle Filippine è stata sospesa quando perdeva il 10%, e abbiamo già delle indicazioni sui futures americani, sulla preapertura della borsa americana, con nuovi forti ribassi nell'ordine del 3 e del 4% sui principali indicatori. Ormai insomma siamo abbastanza abituati a quello che sta accadendo sui mercati. Quello che non riusciamo a capire è quando hanno intenzione quelli che vendono di toccare il fondo, quanto ancora dovranno scendere le borse per considerare questa crisi, almeno dal punto di vista finanziario, terminata, finita, esaurita. Il tema adesso, come sapete, è ovviamente il trasferimento della crisi finanziaria all'economia reale. Ormai sull'onda della recessione ci siamo già, ma il tema è quantificare quanto danno questa crisi finanziaria sta portando al tessuto industriale. Tra l'altro in settimana avremo anche il dato sul prodotto interno lordo americano, sarà un nuovo test importantissimo e per anche decidere cosa farà la Banca Centrale Americana sui tassi di interesse, mentre sul mercato circola con insistenza l'idea che entro pochi giorni la Banca Centrale Europea possa intervenire per portare una nuova forte riduzione del costo del denaro nell'Eurozona, che tra l'altro è una misura chiesta molto insistentemente soprattutto dalle imprese. Piazza Affari, cosa succede? I titoli con i ribassi più forti: Intesa San Paolo sospesa dalle contrattazioni dalle 12.04, quando perdeva l'11.39%, la Popolare di Milano perde l'11%, anche la Popolare di Milano ha avuto numerose sospensioni stamattina. Tenaris meno 9, Fiat meno 8.27, Unicredito finisce a 1,73 e perde adesso il 6.83%. Scendono di 6,5 punti Geox, Saipem, Luxottica, Autogrill meno 6 anche per Terna e Buzzi Unicem, meno 5,80 per Italcementi, Pirelli meno 5,48, meno 5 punti per Telecom e A2A, Italcementi adesso fa meno 5, Unipol e Monte dei Paschi. Nessun titolo positivo, anzi ce n'è uno che in questo momento fa capolino, è Seat Pagine Gialle, pensate un po', guadagna lo 0,33%, euro su dollaro a 1,2457, stamattina l'euro è finito sotto quota 1,24, è arrivata 1,2330. La buona notizia che abbiamo, anzi ne abbiamo un paio: il petrolio è sceso sotto i $60 al barile, non è molto contento l'OPEC ovviamente di questa situazione, ma almeno i consumatori lo sono, sperando che ancora una volta la discesa delle quotazioni del prezzo si trasferisca al più presto anche ai carburanti e quindi alle pompe di benzina. E poi abbiamo l'Euribor, che timidamente anche oggi ha fatto registrare, quello a 3 mesi, una parziale discesa al 4,91%. Lasciamo subito la borsa, andiamo al tema di questa mattina. Oggi parliamo del settore assicurativo legato alla famiglia. Risparmiare senza rinunciare alla qualità. È possibile anche per le polizze, individuando innanzitutto il proprio fabbisogno assicurativo. Poi le garanzie da sottoscrivere. Nel ramo danni, dall'assicurazione sulla casa alla polizza infortuni, sono sempre di più le famiglie che decidono di assicurarsi. Ma si possono ridurre i costi? Chi ha già un'assicurazione dovrebbe per prima cosa riesaminare voce per voce i propri rapporti con la società assicuratrice e tentare di spuntare condizioni migliori rispetto a quelle in vigore. Per i nuovi contratti, invece, vale sempre la regola di valutare la soluzione più conveniente da adottare, chiedendo più preventivi e selezionando quelli che per qualità-prezzo risultino i migliori al momento sul mercato. La cosa più importante, però, è conoscere il proprio profilo in termini di fabbisogno assicurativo. Se per esempio si abita in una zona sismica, è opportuno chiedere esplicitamente nella polizza la garanzia in caso di terremoto, mentre si può escludere la tutela per atti vandalici se si abita al quinto piano. Stessa regola vale per le polizze contro gli infortuni. Mentre per un lavoratore autonomo o un libero professionista può essere importante assicurare i casi di invalidità permanente e di inabilità temporanea, quest'ultima non serve in caso di lavoro dipendente. Quindi, per risparmiare, si dovrebbero seguire poche semplici regole: conoscere le proprie esigenze e i relativi costi, esigere informazioni chiare e trasparenti per confrontare le varie proposte e alla fine scegliere ciò che è davvero meglio per noi. 0024 per porci le vostre curiosità sul tema che abbiamo scelto questa mattina, 349 238 6666 per scriverle se non volete intervenire in diretta. Vedo già delle domande molto interessanti che non mancherò di girare ai miei interlocutori di oggi. Per esempio Angelo ci chiede, è una persona che ci racconta: un reddito basso ma 4 figli, come scegliere un RC capofamiglia, visto che non basta scegliere, credo, la più economica, ma a cosa devo guardare? Allora cercheremo di darle le indicazioni più utili possibili. Grazie stamattina a Francesco Paparella, che saluto. Buongiorno al presidente dell'AIBA, l'Associazione Italiana Broker di Assicurazione e Riassicurazione. Dottor Paparella, benvenuto. Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori. E buongiorno anche alla dottoressa Stephanie Unterweger, spero di aver pronunciato correttamente il suo nome. Dottoressa, esperta del settore assicurazioni per il Centro di Tutela Consumatori e Utenti, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno, grazie di essere con noi. Allora, dottor Paparella, io mi devo togliere subito questa curiosità con lei. Abbiamo una polizza semplice che costi magari anche poco, che ci protegga in questo momento dal panico o da crollo di borsa? Assolutamente no, se l'avessimo credo sarebbe, non avremmo il tempo di darla a chi la chiede. No, tra l'altro, so, a parte questo tipo di rischio è inassicurabile. Abbiamo scoperto tra l'altro proprio in questo frangente assicurazioni costruite su prodotti finanziari e derivati già complicati di loro, insomma non vorremmo alimentare anche un dibattito che in questo momento sta già facendo spendere fiumi di inchiostro a molti esperti del settore. Comunque andiamo al tema di questa mattina, mi sembrava già molto interessante la domanda che ci poneva il nostro ascoltatore, perché dice sì, va bene che devo guardare anche al risparmio, e sicuramente Angelo le linee guida per il risparmio le può trovare nella guida pubblicata questa mattina dal Sole 24 Ore, però mi chiedo, dottor Paparella, quando parliamo di polizze che interessano appunto la protezione del nucleo familiare, si può parlare di polizze che si possono anche personalizzare o si devono personalizzare? Direi che la polizza in sé è uno strumento che va personalizzato, perché evidentemente le esigenze, pur essendo abbastanza assimilabili, perché famiglie con 4 figli con un reddito medio ce ne sono moltissime in Italia, però evidentemente la polizza va comunque verificata e tagliata sulla persona che deve sottoscriverla. Il documento assicurativo è un documento che per sua natura deve essere personalizzato. Per rispondere ad Angelo, evidentemente nel suo caso le polizze capofamiglia che sono diffuse dalle principali compagnie sul mercato sono sicuramente, come dire, tutelanti delle sue problematiche. Avere una normale famiglia con 4 figli non rappresenta un rischio particolarmente gravoso, quindi diciamo che se vogliamo quantificare il costo che Angelo può sostenere per questa polizza possiamo parlare intorno ai 100-120 euro l'anno, quindi è un costo assolutamente, come dire, abbordabile. Ecco, dottor Paparella, da questo punto di vista la nostra cultura assicurativa a che punto è nel nostro paese? Ci sono molte famiglie italiane che hanno una polizza RC capofamiglia? No, guardi, la cultura assicurativa del nostro paese è sicuramente rispetto agli altri paesi dell'area europea arretrata in termini di sottoscrizione di rischi. Le famiglie che hanno una polizza del capo di questo genere non sono molte, se andiamo a confrontare con la Francia o la Germania, che sono i paesi diciamo con più propensione all'acquisto assicurativo rispetto al nostro, senza entrare sulla Gran Bretagna che evidentemente ha dei numeri ancora più elevati. Purtroppo questo vale sia per le polizze del capofamiglia, ma più genericamente per tutte le polizze che tutelano i beni della famiglia, quindi la casa, la proprietà, gli immobili, gli infortuni che sentivamo prima nell'introduzione. E infatti poi faremo il punto senz'altro, anzi lo faremo tra qualche istante, senz'altro tutta la rosa delle tutele contemplate da una polizza di questo tipo, a che cosa dobbiamo guardare, ma abbiamo subito un ascoltatore, Riccardo da Pistoia, che mi pare faccia l'assicuratore e suggerisce ai clienti di leggere meglio i contratti. Riccardo, buongiorno, benvenuto a Salvadanaio. Buongiorno a voi e vi ringrazio di avermi fatto intervenire in diretta. Più che guardare, che leggere le clausole, io direi che facendo questo lavoro ormai da 25, quasi 26 anni, la cosa che ci si sente ripetere più spesso è io voglio spendere poco, però si sa benissimo che spendendo poco il godimento è altrettanto poco. Ci sono ora, sentendo anche l'intervento del dottore prima, ci sono comunque dei contratti che vanno da un premio diciamo contenuto dai 70 euro in su per la responsabilità civile del capofamiglia, e quindi diciamo che con veramente un modesto investimento, se non si può parlare di spesa ma proprio di investimento, si riesce a tutelarsi in modo anche importante. Quindi magari delle volte è meglio non guardare solamente al prezzo, ma guardare molto più ai contenuti, che poi succede che ma io pensavo di averlo e non lo sapevo, ma io non volevo fare questa cosa, ne intendevo un'altra. Quindi la chiarezza, perché comunque si tratta sempre di sottoscrivere un contratto. Ha ragione Riccardo, però guardi, io le dirò la verità, ho per esempio quella legata appunto all'abitazione che ho sottoscritto contestualmente all'erogazione del mutuo, e mi ricordo che, certo, mia colpa, l'ho guardata un po' dopo, ma c'è una sfilza di clausole dove viene indicato quali sono tutte le mancate coperture di quella polizza, che effettivamente mi chiedo che cosa copra, che cosa mai mi possa capitare affinché quella polizza possa entrare, come dire, in funzione nella regolarità, coprendo quindi effettivamente, sperando ovviamente che non mi capiti niente. Però molto spesso cioè cerchiamo anche di metterci dalla parte degli utenti che in genere cercano uno strumento assicurativo pensando di comprare qualcosa che ovviamente li protegga, e l'approccio non è mai quello del fammi andare subito a guardare tutte le clausole di esclusione. Però la ringrazio ovviamente per la sua considerazione, e l'invito a tutti quanti è sempre quello: leggiamoci meglio i contratti, ma questo vale per un'assicurazione, per esempio, come nel caso di quelle che stiamo parlando stamattina, la responsabilità civile per il capo famiglia, come per tutti gli altri prodotti anche di investimento. E questo è un suggerimento che ovviamente diamo molto caldamente sempre. Dottoressa Unterweger, esperta del settore assicurazioni per il Centro di Tutela Consumatori e Utenti, un'associazione dei consumatori, chiamiamola così, che è molto attiva su questo fronte. Ha ragione il nostro ascoltatore che abbiamo appena sentito: voi avete un contatto diretto con i consumatori e quindi anche con i sottoscrittori di polizze del tipo di cui parliamo questa mattina. Non leggono mai i contratti? Sì, devo proprio dar ragione all'ascoltatore. Quasi mai lo leggono. Non solamente le esclusioni e tutte le clausole, ma anche il massimale assicurato. Per esempio qua in Alto Adige abbiamo delle banche che vendono delle RC con il conto corrente con un massimale di 200.000 euro. I consumatori sono contenti di pagare 7 euro, quasi niente, per un tipo di polizza, sono contenti di essere assicurati e sono anche dell'avviso che va bene così, che è un prodotto perfetto adatto a loro. Uh-huh. Invece il massimale che consigliamo noi come associazione è un minimo di 1 milione di euro. Perché ci sono polizze che garantiscono anche massimali inferiori o molto inferiori? Sì, 200-250 mila euro. Sì. Ecco, quindi se il massimale è questo, di conseguenza anche il prezzo del premio immagino che sia molto inferiore. Sì. Quindi proprio sul conto corrente parliamo di 7-10 euro. Ho capito. E quindi insomma già questo dovrebbe essere un primo segnale che ci può dare la misura di quanta copertura abbiamo. Se ovviamente il premio versato è molto contenuto, dottor Paparella, faccio un discorso che va a semplificare molto la questione, però indubbiamente credo che il legame più semplice sia questo, no? Vabbè, la percezione immediata è il rapporto costo massimale. Sicuramente un massimale di 200.000 euro è assolutamente incongruo per questo tipo, ma per qualunque tipo di copertura di responsabilità civile. Anch'io credo che al di sotto del milione oggi sia poco prudente attestarsi, anche perché la differenza di premio da pagare non è così abissale. È chiaro che polizze vendute insieme a un conto corrente vengono fatte diciamo in blocco a costi molto contenuti, però effettivamente la portata della copertura poi diventa residuale di fronte a un danno possibile di entità consistente, quindi non fermiamoci a questo tipo di coperture che sono secondo me tutelanti finché non servono, perché nel momento che dovessero servire davvero, e sarebbe tardi, ci si accorge che la tutela poi non è sufficiente. E che facciamo anche molta fatica emotiva ad affrontare un discorso di questo tipo, perché ovviamente sfuggiamo anche, no, a volontà di soffermarci a pensare ad un inconveniente nella nostra vita, ad un danno che possa essere, che ne so, che possa subire la nostra abitazione, che possiamo far subire ad altri, comunque insomma, quindi credo che proprio ci sia anche a volte una resistenza di natura emotiva, dottor Papare. Esatto, è psicologica. È ecco. Probabile, però è proprio uno dei motivi. E come dire, non ce la tiriamo addosso, ecco. Sì, ma veda, direi che tutte le polizze invece hanno un valore scaramantico, nel senso che ognuno di noi stipula un contratto d'assicurazione sperando di non usarlo mai, perché comunque va a tutelare un evento imprevisto e grave, qualunque sia il tipo di polizza. Certo. Però forse invece l'aspetto scaramantico io lo vedrei all'inverso: ho una tutela e sto tranquillo. Infatti. Quindi... Senta, adesso tra l'altro parleremo anche di questo costo medio che voi di AIBA avete così individuato proprio per la guida del Sole 24 Ore, per capire quanto si può ragionevolmente spendere. Ovviamente è una cifra media che si rifà ad una determinata tipologia familiare, di nucleo familiare e anche di abitazione nella quale si vive. Però sentirei anche un un'altra ascoltatrice, Maria da Milano, che saluto. Maria, buongiorno, che pure è un po' perplessa su questi strumenti assicurativi. Maria, benvenuta. Buongiorno, capitate proprio a fagiolo, nel senso che io sono propensa per fare le assicurazioni sulla casa. Però effettivamente è molto complicato capire. Io che invece sono una che legge tutto, vi assicuro che leggo ma non si capisce niente. E innanzitutto ti fanno un'assicurazione sulla casa che tu ti dicono: ah, assicuriamo la casa al valore di 1 milione di euro, poniamo che la tua casa valga un milione. Però in realtà non si capisce, una volta che tu subisci il danno, che cosa ti vanno a rimborsare, realmente a risarcire. Sì. Perché applicano, innanzitutto ti dicono che ti rimborsano, però applicano la regola proporzionale e si fanno riferimento all'articolo 1906 del codice civile, poi parlano del valore nuovo per quanto riguarda gli oggetti interni, i danni interni all'immobile, ma non si capisce neanche come vanno a determinare questo valore nuovo. Maria, cioè, guardi, non posso dare le fatture, certo. Ecco, e una volta che ho un oggetto di antiquariato, come lo fanno a definire? Maria, quando la io sua... ho avuto il danno, guardi, che cosa mi rimborsano? A Salvadanaio questa mattina, grazie anche ai suggerimenti che troviamo nella guida per spendere meglio dedicata al settore delle banche, delle assicurazioni, in edicola questa mattina con il Sole 24 Ore, stiamo parlando appunto di tutta quella rosa di protezioni che possiamo sottoscrivere per ovviamente proteggere la famiglia e la nostra casa. E molti ascoltatori, come spesso capita da questi microfoni, ovviamente lamentano che anche con la massima buona volontà nella lettura dei contratti sottoscritti si scoprono poi clausole incomprensibili, tutta una serie di deroghe e eccezioni, insomma, che ovviamente non che ci scoraggiano a volte anche dalla sottoscrizione poi di strumenti di protezione di questo tipo. Infatti stavamo ascoltando Maria da Milano, che pur essendo insomma una persona molto avveduta e molto attenta anche nel leggere le condizioni più incomprensibili dei contratti, dice: alla fine io non riesco a capire, assicurando per un tot la mia casa, quanto poi sarei coperta qualora mi capitassero determinati incidenti. E allora, per esempio, dottor Paparella dell'AIBA, l'Associazione Italiana Broker di Assicurazioni, la regola proporzionale che Maria da Milano citava, che diavoleria è? La regola proporzionale stabilisce l'obbligo di assicurare un valore complessivo pari al valore effettivo del bene che si intende assicurare. Ma io direi, ma questo in generale, alla signora Maria e a tutti quelli che ci ascoltano, che l'assicurazione è comunque materia complessa e che quindi per affrontarla in modo corretto credo che si debba fare riferimento a professionisti qualificati, come sono appunto i broker o piuttosto gli agenti di assicurazione, perché la spiegazione, i problemi che ha suscitato la signora, ha portato la signora, sono problemi complessi. Per esempio parlava di beni con un valore artistico, esatto, o di antiquariato, quindi sono beni che sono assicurabilissimi da un punto di vista tecnico, che devono essere anzi assicurati. Ma assolutamente sì, se no una galleria d'arte non si assicurerebbe mai. Il problema è che per fare questo tipo di assicurazione questi beni vanno stimati a priori e non a posteriori, quando non sono più disponibili per essere visionati. Volevo sentire Maria se si è rivolta comunque al broker e se al suo agente assicurativo con il quale stava sottoscrivendo questo contratto, che domande gli ha fatto e che risposte ha trovato. Maria, perché poi ecco, ci accusano anche, non parlo di Paparello ovviamente, di non magari così interagire adeguatamente con il nostro consulente. Lei l'ha fatto? Certo che l'ho fatto, l'ho fatto, è un mese che aspetto una risposta. Anche perché in questa assicurazione, cioè, io poi mi sono informata su che cos'è questa regola proporzionale, no? E praticamente ti dicono che tu devi assicurare il valore reale di ciò che hai. Se per caso assicuri un valore inferiore, una volta che tu avrai un danno, verrai rimborsato della metà, ma nessuno te lo scrive se non te lo vai a vedere. No, non capisce che queste sono cose. Aspettate un attimo, tutti e due, non vi accavallate. Allora, dottor Paparella, ma magari Maria vuole anche assicurare dei beni che possono subire una variazione, perché subiscono una variazione di mercato, e allora lì, per esempio, la regola che cosa fa? Viene sconfessata a seconda del momento in cui il danno si determina? No, allora, però, per fare chiarezza, la signora Maria ha suscitato tre problemi: ha parlato della regola proporzionale, ha parlato di valore al nuovo e ha parlato di oggetti di valore antiquario o artistico. Sono tre cose completamente diverse. e cercherò di spiegare, di farmi capire. La regola proporzionale, come dicevo prima, stabilisce che un bene vada assicurato per il valore effettivo. Laddove questo valore assicurato risulti inferiore al valore effettivo del bene, l'assicuratore ha il diritto di rimborsare il danno nella stessa proporzione con cui il bene è stato assicurato. In ipotesi, se il mio bene vale 100, l'ho assicurato per 50, verrò risarcito al 50%. Benissimo. Fatto questo, ed è una cosa, il valore a nuovo è tutt'altra materia e significa assicurare non il valore commerciale di un certo oggetto, di un certo cespite, di un certo bene, ma il valore che è necessario per ripristinarlo a nuovo, cioè ricomprarlo se va distrutto. Ed è un'altra clausola ed è un'altra garanzia. Il valore, come dicevo prima, dei beni artistici si può garantire solamente con delle perizie fatte prima del contratto, in modo che questo valore, che poi viene accettato dall'assicuratore, diventa proprio una stima accettata, e quindi noi sappiamo che se quel quadro di Picasso sparisce, io verrò risarcito di quella cifra. Il perito lo sceglie la compagnia di assicurazione, dottor Paparella? Sì, ma l'assicurato ha il diritto di scegliere un proprio perito. Per andare in contraddittorio col periodo dell'assicurazione. Quindi eventualmente trattare anche su questi aspetti. Assolutamente sì. E Luigi da Roma invece ci introduce un altro tema con il quale spenderemo qualche parola con la dottoressa Unterweger, cioè le polizze infortuni. Luigi, buongiorno. Pronto? Luigi, pronto? Può abbassare la radio? Sì, grazie. Sì, pronto, mi sente? La sentiamo benissimo. Intanto buongiorno a tutti. Grazie. Volevo soltanto dire una cosa, che il danno è niente di fronte alla beffa e alla tragedia che accade quando uno poi subisce un danno o un furto. Io sono un danneggiato in uno stabile, che una perdita d'acqua ha fatto un grosso danno. La compagnia, stiamo parlando della RAS Allianz, per carità, guardatevene tutti, no, va bene? È una delle più grandi a livello internazionale. No, a parole. Allora, le dico questo. Allora, io subisco questo danno da una fuoriuscita dell'acqua di un appartamento. Quindi non si è infortunato lei, Luigi, è comunque un danno della sua abitazione? No, del materiale. Io ho un'attività di filatelia e numismatica, francobolli, da collezione. Mi sono stato chiaro? Sì. Sì. Allora, questo danno che io subisco, viene fatta la denuncia dall'amministratore alla compagnia, la compagnia manda un perito, il quale dopo qualche giorno, direi forse un mese, mi dice: guardi, non è di mia competenza perché il danno è troppo elevato, bisogna che ne venga un altro. Benissimo. Ne viene un altro, mi chiede mille cose, io faccio tutto quello che lui mi chiede, documentazioni, foto, guardi, non le dico, sono stato chiuso 2 mesi per ripristinare il locale e renderlo ancora possibile, diciamo, praticabile, alla vendita. Mm-hmm. Dopo 2 mesi, il 30 di giugno, le do una data, questo nuovo perito viene sollevato dall'incarico e viene incaricato un nuovo perito, sempre dalla stessa compagnia. Naturalmente il nuovo perito lo contatto, lui mi contatta tutto telefonicamente: guardi, noi dobbiamo nominare un nostro perito che valuti il danno che lei ci ha sottoposto, io ho tutta l'argomentazione così come l'hanno chiesta, me ne hanno chieste di tutti i colori per mettermi. Com'è finita difficoltà. Questa storia, Luigi, così do spazio anche ad altri ascoltatori, è una storia molto com'è bella. Com'è finita? Scena muta. Ancora deve sentire qualcuno. L'avvocato ha mandato un fax, parliamo di grossa compagnia, ha mandato un fax, adesso inizieremo la causa. No, ma guardi, io Luigi non è che voglio difendere assolutamente le assicurazioni perché non mi interessa. Qui abbiamo anche di nuovo, come dire, superato l'ambito che volevamo affrontare quest'oggi, che era l'ambito familiare. E invece per 2 telefonate consecutive ci è capitato un ambito professionale molto particolare, molto delicato, e mi permetto di dire che anche il suo, non che questo giustifichi la latitanza della compagnia, che le deve dare delle risposte e sbrigarsi anche, perché non è giusto come si sta comportando. Detto questo, è un settore professionale molto complicato e immagino anche lì i periti che fatica stiano facendo in questo momento per così immaginare anche un risarcimento giusto. Dottoressa Unterweger, so che non è esattamente questo il suo campo d'azione, però secondo lei come giudica quello che è capitato a Luigi? non è sicuramente giusto che li fanno aspettare così tanto tempo e che un perito dopo l'altro si guarda la questione, però è importante che il signore fa un reclamo per iscritto alla compagnia e eventualmente lo gira anche all'ISVAP, all'autorità. Esatto, infatti lì volevo arrivare, perché l'ISVAP sanziona questi ritardi, guardi, per cui Luigi magari faccia anche questo passo se è il caso. Sì, dottoressa, l'ho interrotta. Non c'è problema. Comunque, volevo aggiungere un'altra cosa alla questione della signora Maria, sì, se posso. Certo, molto volentieri. Comunque, la signora parlava della regola proporzionale e c'è da dire che la regola proporzionale viene applicata solamente nella forma del valore intero a nuovo e non con la forma primo rischio assoluto. Quindi c'è da individuare questa cosa qua. E se invece la signora sta attenta che il massimale rimane sempre a quello adatto, allora non succede neanche. E per individuare questo massimale, che dovrebbe corrispondere alla spesa necessaria per l'integrale costruzione dell'intero fabbricato, la nostra provincia qua a Bolzano dà anche dei valori, non so come negli altri paesi, però sì, come province, comunque la provincia di Bolzano dà 1248 euro IVA esclusa per ogni metro quadrato. Questo può essere già un aiuto grande al consumatore per farsi più o meno la somma che è da assicurare, che deve essere assicurata. Sì. È sicuramente un problema, perché tante volte mi trovo delle polizze dove vedo dei massimali che corrispondono al valore commerciale, che è molto più alto del valore di ricostruzione, e quindi il consumatore deve anche pagare un premio molto più alto. Ho capito. Allora, avevamo Emi da Bergamo, non so se è ancora in linea Emi, perché la stiamo facendo aspettare da tantissimo. Emi, benvenuta, le faccio fare la sua domanda, le rispondiamo dopo i suggerimenti perché in viaggio. Ovviamente invito ancora gli altri ascoltatori, se vorranno, a chiamarci all'800 24 00 24. Benvenuta. Buongiorno, grazie. Anche se il tempo di attesa è stato lungo, comunque ho avuto molte informazioni. Ha sentito, invece della radio, ha sentito la trasmissione al telefono, Emi, infatti. Senta, il problema è questo. Mia figlia era una lavoratrice dipendente, da un anno è una libera professionista. Sì. Naturalmente non ha più nessuna copertura in caso di malattia. Certo. Io sto valutando la possibilità, appunto, che si faccia un'assicurazione degna di questo nome. Lei dice, dove metto le mani? Ecco, esatto, perché la questione diventa, se dovesse avere un infortunio o qualcosa del genere, trovare un sostituto, e quindi questo sarà naturalmente un costo per lei e dovrà quindi pensare a questa eventualità con un'assicurazione che la tuteli in questo senso. Mi chiedo, Emi, se sua figlia abbia già fatto qualche chiacchierata con qualche operatore del settore, che tipo di risposte ha trovato. Ho appena chiesto alle assicurazioni generali un preventivo, ma non l'ho ancora avuto. Mm-hmm. E per cui appunto questa trasmissione capita a fagiolo, perché magari voi siete... No, tra l'altro, Emi, lei ha chiesto per esempio un preventivo facendo una chiacchierata, perché questo è un caso molto particolare. Io mi immagino un broker, un consulente che chiami, sì, sua figlia, si faccia una bella chiacchierata di mezza giornata con questa persona e colga pienamente tutte le sue esigenze. È stato così? Sì, direi che penso che l'assicuratore fosse informato abbastanza e ha chiesto alcuni chiarimenti, quindi direi che sono stati abbastanza corretti. Benissimo, Emi, sì. Devo dire che anch'io sulle assicurazioni avrei molte frecce da lanciare. Emi, ma guardi, in questo caso mi è sembrato competente, professionale, benissimo, e attento alle esigenze di mia figlia. A Salva Danai abbiamo introdotto, tra tutte le varie tipologie di polizze assicurative di cui stiamo parlando questa mattina, anche quelle per assicurarsi in caso di malattia, e questo è un problema che riguarda soprattutto i liberi professionisti, naturalmente, che non hanno il settore pubblico che risponde di questi casi. E oltre alla situazione di Emi da Bergamo, che ci poneva il caso della figlia, c'è anche un messaggio di un ascoltatore, Bruno da Milano, che dice: sono un libero professionista, ho un reddito mensile lordo molto alto, non lo dico Bruno, complimenti. affetti però sono single, che polizza mi consigliate per la malattia? Quindi una domanda molto semplice che così a cui cerchiamo di rispondere magari con dei suggerimenti di partenza. Francesco Paparella, AIBA, Associazione Italiana Broker di Assicurazione. Insomma, come suggeriamo ai nostri ascoltatori di muoversi in questo terreno? Ma dunque, intanto va premesso che è correttamente l'agente delle generali a cui faceva riferimento la signora Eni ha fatto questo approfondimento. C'è il regolamento 5 dell'ISVAP che stabilisce l'obbligo di adeguatezza dei contratti che si vanno a proporre, quindi è obbligatorio per l'intermediario acquisire tutte le informazioni che servono ad inquadrare effettivamente le necessità del suo interlocutore. E questo che il fatto che venga fatto dà una garanzia in più sulla adeguatezza di quello che poi andremo a proporre. Per i liberi professionisti le coperture sostanzialmente sono di tre tipi: una polizza che gli garantisca una pensione, visto che il libero professionista se la deve costruire in proprio, e a questo riferimento io parlerei solo del ramo primo del polizze vita ramo primo, cioè polizze a capitale e rendimento garantito, che sono assicurazioni pure e non speculazioni finanziarie, perché abbiamo visto che succede. Mm-hmm. Una polizza infortuni che è indispensabile per tutelarsi non solo dal danno emergente dell'infortunio, quanto dal lucro cessante, perché chi subisce un infortunio rimane indisponibile al lavoro per N periodo, questo significa per un libero professionista essere indisponibile a guadagnare. Una polizza di rimborso spese mediche, perché evidentemente i costi della medicina privata sono elevatissimi e quindi è giusto tutelarsi, perché questo tipo di eventi, se mai dovessero verificarsi per sé o per la propria famiglia, vanno opportunamente assicurati. Ecco, dottor Paparella, questa persona deve farsi delle polizze diverse o può farsi una polizza unica che copra tutte queste circostanze? Ma guardi, sono polizze diverse, perché la polizza vita per la pensione integrativa è una polizza che risponde al ramo vita ed è una polizza a parte. La polizza infortuni, alla quale io abbinerei anche un'invalidità permanente da malattia, che è importantissima, come pure una polizza di rimborso spese sanitarie, sono contratti separati, ma evidentemente sono parte di uno stesso problema e quindi suggerirei di esaminarli contemporaneamente nell'ambito di un programma più ampio, anche perché così si può ottenere un costo complessivo più contenuto. Certo, infatti, anche perché lì, ecco, poi stabilire quanto è ragionevole che la figlia di Emi spenda in premi è un discorso altrettanto importante. In genere i parametri che ci consentono di capire qual è il premio giusto, dottor Paparella, quali sono? Per la polizza infortuni e invalidità permanente da malattia direi che il guadagno medio annuo è il parametro di riferimento principale. Sì. Principale. Per la polizza vita la componente età ha evidentemente una valenza importantissima, per la polizza rimborso spese sanitarie il massimale che ci si vuole garantire fa sempre, anche lì l'età ha il suo riferimento, ma meno, e il massimale diventa il parametro di riferimento per il calcolo del premio e il numero delle persone del nucleo familiare. 800 24 00 24, torno a ricordarvi il numero verde per i vostri interventi. Marco da Pisa, benvenuto. Sì, buongiorno a tutti. Porta coscienza il mio caso, che potrebbe servire a tutti i genitori che hanno bambini a scuola. Mia figlia a maggio del 2007 ha subito un infortunio durante l'esercizio, la lezione di educazione fisica. Uh-huh. Ha avuto una microlesione al polso, se non che è stata steccata per 15 giorni, dopodiché è stato messo un tutore, visite e tutto quanto. La scuola subito ha fatto la denuncia all'assicurazione, che tra le altre cose era un'assicurazione che noi genitori avevamo sottoscritto, attivato. Già. Sì. E niente, per gravi problemi familiari è passato del tempo, se non che quest'anno a settembre ho presentato tutta la documentazione all'assicurazione. E proprio sabato ho ricevuto la raccomandata dove mi veniva respinta la mia richiesta di rimborso, perché in base all'articolo del codice civile era subentrata la prescrizione. Niente, volevo sapere se in questo caso io potevo fare qualcosa oppure mi dovevo prendere atto di questa situazione. Grazie Marco. Sentiamo la dottoressa Unterweger, perché in questo caso lo posso dire, la questione infortuni è un po' più oggetto di sua competenza. C'è anche una scadenza dei termini, una prescrizione dei termini nel caso delle polizze infortuni? Sì, certo, c'è la prescrizione di un anno, Però comunque se la prescrizione può essere interrotta con ogni lettera che io mando alla scuola o alla compagnia d'assicurazione, per cui mi sembra anche strana che la compagnia rispinge il danno per questo tipo. Non ha tenuto dei contatti con l'assicurazione o con la scuola? Abbiamo ancora Marco in linea. Marco, sì, lei... Sì, pronto. Sì. No, la scuola, la bimba tra le altre cose ha fatto gli esami di terza media, per cui le scuole sono finite a giugno e niente, c'era questa cosa qui aperta e niente, ripeto, per gravi problemi familiari ho trasmesso tutta la documentazione a settembre. Tra le altre cose la compagnia è una di quelle che voi avete citato. non infieriamo ulteriormente, non ci accaniamo, Marco. Senta, facciamo una cosa, allora magari se lei riuscisse un po' a riepilogarci la sua situazione, sono convinta che la dottoressa Unterweger volentieri gli darà un'occhiata per capire se ci sono dei margini per riaprire questo discorso. Dottoressa Unterweger, facciamo fare così, è d'accordo? Va bene. Magari vediamo insomma se c'è qualche modalità per capire se effettivamente questo dialogo era completamente interrotto in questi mesi o meno. L'ultima domanda la segno a Giuseppe da Lucca, perché questo volevo proprio, mi piacerebbe appunto ascoltarlo, perché riprendiamo da dove abbiamo iniziato, l'RC Capofamiglia. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, la sento lontanissima, complimenti per la trasmissione. Niente, io ho fatto un danno, ho rotto un vetro giocando a pallone a una macchina, mi sono presentato presso la mia assicurazione, ho aperto il sinistro, hanno chiesto le fotografie, la fattura e tutto. Cioè, questo è successo a maggio, siamo arrivati alla fine di ottobre, ancora non hanno pagato il danno, però sono venuto a sapere che stanno arrivando i soldi, ma dopo una lunga e sostenuta discussione, tra cui l'ultima che feci io in agenzia alla mia assicurazione, dissi va bene, voi non volete pagare il danno, io levo tutte le polizze, ho un contratto che dura decennale, perché mi hanno fatto un capofamiglia che dura decennale. Perché Giuseppe non la... perché che cosa contestavano, Giuseppe? Perché la sua compagnia non la voleva aiutare in questa situazione? Perdevano la documentazione, è cambiato il perito, non sapevano niente, sotto, al che io mi recai in agenzia, siccome mi dissero che in un giro di un mese e mezzo avrebbero pagato, poi ci fu il mese di agosto, ok? Le ferie e tutto, mi sapevano tutto. Fino a che l'ultima volta, una delle ultime volte, risale a 20 giorni fa, mi sono presentato in agenzia, ma ancora non sappiamo, è cambiato bene, no, c'è problemi, o mi risolvete il problema o tolgo tutto. Giuseppe, sì, devo chiudere perché ho 20 secondi. Non è un problema, vi mando 4-5 danni uno dietro l'altro da 700-800 euro l'uno, vediamo come va a finire. Giuseppe, guardi, io l'ho chiusa molto brutalmente perché voglio chiudere in 20 secondi con Paparella. Questo era un caso, Paparella, ovviamente non c'erano di mezzo oggetti d'antiquariato molto pregiati, no. Per cui ecco, insomma, ma quando capitano queste occasioni dovevamo proprio minacciarla la compagnia che sciogliamo tutti gli altri rapporti per farci ascoltare. Ma grazie a Dio non c'è più bisogno perché i contratti decennali non sono più obbligatori. No? Bersani l'ha stabilito, per cui chi ha contratti decennali sa di potersi comunque liberare, e sicuramente per l'assicuratore una minaccia concreta è anche lei la suggerisce, quando ce vo insomma, no? Ma io i broker da sempre fanno contratti annuali, ma questo noi lo facciamo da 40 anni, va da bene, quando operiamo nel territorio. Grazie. Oggi anche chi si rivolge agli agenti sa che un contratto decennale è rescindibile comunque. Ho rubato un minuto ai colleghi di GR Extra Large, mi farò perdonare rapidamente. Grazie a Francesco Paparella, Stefania Unterweger per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani, torneremo sulla borsa e soprattutto sui mercati più preoccupati in questo momento, dall'Asia all'Est. Buona giornata a tutti.